Ecco, allora vi vedo bene seduti, è un compleanno questo, giusto? Cominciamo bene, è un compleanno. Facciamo adesso un po' di parole e poi seguirà la festa, il concorso, i premi, ambiti che sono esposti su quel banco là. Facciamo un po' di parole, perché il compleanno sarebbe il compleanno di un'associazione di lavoratori, si può dire? Sì, un sindacato di lavoratori, in un mondo in cui la figura sindacale viene meno alla sua funzione, anche laddove spesso viene meno alla sua funzione, anche laddove c'è una struttura più, come dire, fordista e classica, ancora antica, corrispondente alle sue origini, in dei settori che sono, potremmo dire, ontologicamente precarizzati, cioè che la cui struttura base, prima ancora delle grosse trasformazioni nel mondo del lavoro, era abbastanza dinamica e, come dire, intermittente. Ecco. E questo ce l'hanno con me? No. Questo, in questa fase, trovo che sia particolarmente interessante, perché può essere una sollecitazione a delle forme di ricomposizione dal basso, appunto, di figure lavorative, sia queste che in qualche modo la precarietà se la tirano dietro, e sia quelle che invece l'hanno dovuta subire e imparare nel corso di questi anni, di questi ultimi almeno 10 anni. Allora, io come prima cosa chiederei a loro di presentarsi e di spiegare un attimo chi sono e che cosa fanno, così che non rischio di sbagliare. Ecco, allora. Okay. Comincio io. Vabbè, direi che comunque buonasera a tutti e buon compleanno a noi. Questa cosa poi la rifaremo durante la serata. E niente, vabbè, grazie Tommaso e grazie al Cox, alla Calusca, che hanno messo la loro potente macchina organizzativa, insomma, al servizio, è molto bello. E vabbè, sì, più o meno lo sapete, chi c'è qua più o meno lo sa, però diciamo due cose fondamentali, cioè siamo nati come gruppo all'interno di una sorta, diciamo, di sindacato del lavoro autonomo che si chiama ACTA. E quindi 4 anni fa abbiamo cominciato a creare questo gruppo di persone che lavoravano coi libri, editoria libraria, ed erano tante, e non era una cosa così casuale, ma semplicemente un settore che ha avuto una forte esternalizzazione negli anni. E quindi siamo nati con un'autoinchiesta, con riunioni così, e poi sono nate le relazioni tra le persone, insomma si è creato un gruppo vero e proprio che ha fatto un lavoro di diverso tipo, sia di analisi del settore, sia di proposta per quanto riguarda leggi e, insomma, punti problematici, e anche proprio di creazione di standard per quanto riguarda i compensi, le prestazioni, e magari lo vedremo un pochino meglio dopo. E tendenzialmente l'idea è di cercare di lavorare come un sindacato, più o meno, ovvero cercare di mettere insieme le persone che lavorano, ovviamente in un contesto, come dicevi Tommaso, che è un po' diverso da quello fordista, però di fatto tutto quello che facciamo noi è fondamentalmente volto a mettere insieme tutto questo lavoro così polverizzato e frammentato, ecco. Abbiamo pensato di chiamare AWI, Art Workers Italia, per il compleanno, perché insomma ci conosciamo da un po' di tempo, secondo noi c'erano tante cose in comune, anche delle differenze, però insomma, per festeggiare il compleanno poteva essere un buon momento per fare il punto, magari confrontarci su alcune cose. Quindi intanto ringrazio Marta Bianchi di Art Workers Italia che è venuta a festeggiare con noi. Grazie dell'invito, aiuto. Fantastico. E, grazie Mattia, insomma siamo come AWI molto felici di far parte della festa, anche se per questo momento. E, AWI nasce con gli stessi obiettivi, credo, di ACTA e di Red ACTA, quindi vedere riconosciuto e tutelato il lavoro delle professioniste e dei professionisti del settore dell'arte contemporanea. Quindi anche noi abbiamo, in realtà in tempi più recenti, quindi da marzo 2020, in modo assolutamente informale, attraverso appunto dei gruppi, di persone che si sono riunite dapprima online e poi in realtà prevalentemente ancora online, perché siamo sparsi su tutto il territorio, però poi appunto in gruppi, per cercare appunto di rivendicare il nostro ruolo anche all'interno della società. Abbiamo realizzato diverse collaborazioni e abbiamo realizzato diversi strumenti, proprio a partire da un sistema che è totalmente deregolamentato e frammentario, quindi dove ovviamente il carattere atipico del lavoro è in realtà quello più frequente. E quindi abbiamo fatto attività effettivamente di pressione politica come voi a più livelli, dal territorio locale, nazionale e anche in ambito appunto europeo. Direi che... Bene, bravi, bravissimi, avete risposto bene. No, allora volevo chiedere, proporre un altro un approfondimento di questo tipo qua. In una situazione come la vostra, per l'appunto di estrema precarizzazione legata anche alla tipologia dell'attività che viene fatta, risulta difficile delle operazioni che altrimenti un tempo erano più ovvie, che sarebbe quelle di riconoscere e identificare qual è la propria controparte, qual è la propria parte, cioè anche contattare la propria parte talvolta è difficile, perché appunto tu dici sparse sul territorio nazionale, figure che fanno delle attività intermittenti in luoghi diversi, sottoposti a dei regimi, dei contratti, delle attività differenti, risulta essere molto complicato. Quindi immagino che il primo gradino sia quello di capire come ci si orienta rispetto a questi due poli. Aggiungo subito un terzo, perché ho visto, diciamo in qualche modo, che entrambi avete poi dei fiancheggiatori, cioè delle parti con cui lavorate, che sono delle università, degli enti di ricerca, piuttosto che delle altre associazioni o così, e con cui avete quindi un ruolo, diciamo, più forse di analisi, di riflessione, di scambio su quel piano lì, ecco. Quindi il quadro composto semplificandolo enormemente, una controparte, una parte e queste figure, come vengono identificate, chi sono e come si contattano e come ci si interrelaziona con loro, ecco. Lo proporrei tutte e due così. Ok. Sì, beh, diciamo che la parte iniziale del nostro lavoro, ma quella che continua comunque, è appunto, invece che al contrario dei sindacati tradizionali, è il confronto, salve Marta, è il confronto con le persone che fanno il nostro stesso lavoro, cioè che appunto parte dal trovarle queste persone, perché appunto possono lavorare in realtà in tutta Italia e non solo, tendenzialmente la maggior parte di noi lavora da casa in solitudine, quindi è molto difficile capire chi lavora nel nostro ambito, e in questo per trovare le persone è stato molto utile comunque fare l'inchiesta e fare appunto riunioni, focus group, che è quello che stiamo facendo anche adesso con la parte sulla scolastica, di cui qua magari c'è qualche esponente che magari può dire qualcosa magari dopo su come sta andando questa inchiesta. Però la prima cosa da fare per noi è confrontarci tra persone che lavorano, appunto per prima trovarsi e poi confrontarci sul contenuto del lavoro e anche sui compensi, perché ovviamente diciamo che la modalità di contrattazione dei compensi standard è quella individuale, e quindi tendenzialmente diciamo chi lavora è estremamente fragile, e quindi c'è sempre anche un po' il rischio, soprattutto per chi entra nel settore, ma non solo, di sostanzialmente, pur di avere il lavoro, magari abbassare un po' le pretese. E quindi questo crea un effetto di fatto di dumping, in cui poi le scelte individuali, che comunque noi siamo quasi tutti lavoratori e lavoratrici autonomi, quindi si dice, beh, le scelte individuali riguardano te e basta, quasi, è questa grande libertà come vantaggio. In realtà poi queste scelte individuali, quando si sommano, hanno degli effetti poi su tutte le altre persone che lavorano. Quindi per noi è fondamentale capire dove siamo, chi siamo. E noi queste persone qua le raggiungiamo con l'inchiesta, con i social, e poi con delle riunioni dal vivo che facciamo con una buona periodicità nelle principali città dell'editoria italiana, soprattutto al nord. Purtroppo a Roma e Napoli abbiamo fatto molta fatica a dare continuità a questa cosa qui. Quindi questo è un dato anche interessante. Comunque diciamo che la maggior parte delle case editrici si concentra nelle grandi città del nord Italia, Torino, Milano, Bologna, quindi ci sta. La controparte in teoria è molto più facile da individuare, perché uno potrebbe dire, beh, la controparte tipicamente per un sindacato è l'associazione datoriale che riunisce gli editori. Non è così facile, cioè, sappiamo chi sono, sappiamo dove stanno di casa, come si dice, però non, è molto più difficile metterli a un tavolo per trattare, fondamentalmente, perché sostanzialmente sono abituati a contrattare individualmente con le persone, e quindi non hanno dei grandi incentivi a mettersi a fare una contrattazione collettiva, che tra l'altro appunto sono cambiate le leggi europee, quindi per noi è possibile da qualche mese. E diciamo che però abbiamo già fatto degli esperimenti, diciamo, di tavoli di contrattazione, che però sono durati qualche mese, e nel momento in cui si è cominciato a parlare di cose concrete, la controparte è scomparsa, sostanzialmente evaporata, e quindi diciamo che questo primo esperimento è andato benissimo, quindi e poi magari approfondiamo altre cose, però per stare sulla domanda, sui fiancheggiatori, sì, diciamo che l'ascolto principale che abbiamo è così, è con l'università in questo momento, e un pochino ogni tanto con le istituzioni locali, però diciamo che l'università è molto interessata a noi come progetto, come cosa, e tendenzialmente riusciamo a fare tante cose, abbiamo fatto una ventina di lezioni ormai in università, sia mirate proprio a chi entrerà nel nostro settore, quindi andiamo a lettere, ma ci interessiamo molto anche a sociologia, a tutti quegli ambiti che studiano le relazioni industriali, quindi tendenzialmente lì. La cosa importante per noi è avere anche la legittimazione che ci dà l'università, cioè che le ricerche che facciamo, quello che diciamo, l'analisi del settore, cioè ovviamente siamo una parte in causa, però le facciamo usando degli standard, cioè che vengono riconosciute. Quindi quando andiamo a affrontare la controparte, ricordo a quel famoso tavolo, quando abbiamo detto, guarda, noi abbiamo fatto questa inchiesta, questa ricerca, questa editrice ha fatto ah quindi cioè comunque è una cosa che ci rafforza molto, perché noi vogliamo essere, non dico i più autorevoli, però essendo gli unici che si interessano di chi lavora in questo settore, perché di indagini su editoria, sui libri ce ne sono tantissime, però nessuno aveva mai cioè anzi nessuno, la rete redattori precari, che era un progetto diciamo simile, aveva fatto nel 2012 con la CGL, però poi non è come se non interessasse, interessano di più i libri, ma non chi li fa, e quindi le esigenze dei libri e non di chi li fa, quindi credo più o meno di aver risposto, poi bacchettami. Allora, io ma sicuramente ci sono degli elementi assolutamente simili, per cui sicuramente la questione anche dell'autoformazione proprio rispetto a come identificare, no, la parte, la controparte, per noi era fondamentale riuscire ad avere un'analisi, un quadro diciamo supportato da dati, che quindi potesse appunto fornire quella credibilità in contesti istituzionali in cui andare a rivendicare appunto un supporto, un sostegno al lavoro di tutta la filiera. Quindi anche noi in realtà abbiamo contattato Anna Soru, presidente di ACTA, se non sbaglio, presidente, che ci ha supportato veramente in maniera molto accurata rispetto proprio al processo di preparazione dell'indagine di settore, perché ovviamente non volevamo fare come dire, un'indagine che non avesse appunto i come dire, requisiti scientifici per poi poter produrre dei dati che fossero effettivamente misurabili e appunto quantificabili. Quindi sicuramente il dialogo con ACTA è stato fondamentale, così come anche il dialogo con SMART, che è un'altra realtà che si occupa appunto di lavoro di supportare il lavoro dei professionisti dello spettacolo. E quindi attraverso diciamo, queste due realtà siamo riuscite a creare un'indagine che poi abbiamo diffuso in maniera non capillare, proprio perché non c'è, appunto qui suggerito da Anna Soru, non c'era un bacino già chiaro di quelli che erano effettivamente i lavoratori e le lavoratrici dell'arte contemporanea. Abbiamo utilizzato un sistema che in qualche modo andasse a coinvolgere direttamente alcune persone che lavoravano con noi. Quindi ognuno di noi ha contattato 4 persone, quelle 4 persone hanno contattato altre 4 persone, quindi adesso non mi viene il nome tecnico inglese, però di fatto si è costituita una ramificazione di persone che in qualche modo lavoravano. E da lì abbiamo avuto i dati terrificanti, disastrosi del nostro settore, però appunto che sono stati utili in diverse occasioni, insieme ai lavoratori dello spettacolo lo scorso aprile, era lo scorso aprile? No, 2 aprile fa forse, 2021, abbiamo occupato il Piccolo Teatro di Milano e siamo riusciti in una giornata a raccontare anche il lavoro dei professionisti, delle professioniste del mondo dell'arte. In un contesto in cui vedeva i lavoratori dello spettacolo come principali protagonisti, e come sappiamo c'è una storia anche diciamo, di lotta e di condivisione molto più importante, no, della nostra. E quindi anche in quel momento è stato molto interessante, anche proprio rispetto alla domanda che facevi, qual è la parte, qual è la controparte, no? Era stato veramente interessante riuscire a capire che comunque non ci si conosceva, no? Si pensava di stare dalla stessa parte, ma di fatto non ci si conosceva e si attribuivano a, come dire, la parte opposta tutta una serie di, come dire, non privilegi, però certezze o risultati acquisiti che non erano assolutamente poi, come dire, rispondenti alla realtà. Quindi anche in quel momento è stato importante anche per... come dire, poi capire effettivamente le differenze, ma come stiamo facendo anche adesso, invece quali erano i tratti distintivi e caratterizzanti di entrambi i mondi. Un altro elemento, quando citi la controparte, in realtà siamo anche noi stessi, no? In un certo senso, perché tutti gli strumenti che noi abbiamo realizzato, ovvero appunto l'indagine di settore e una guida ai compensi minimi e dei contratti che vadano a supportare il lavoro principalmente di artisti e curatori, curatrici, di fatto non sempre vengono utilizzati. Di fatto, soprattutto nel mondo diciamo, dell'arte, c'è un altro grosso tema che non so se risponde anche al vostro, che è quello della visibilità, no? Quindi essere pagati, come dire, attraverso la visibilità. Ah, ma come vuoi essere pagato eppure stai facendo la mostra nel museo XY, ti paghiamo la produzione, fatelo andare bene, no? Purtroppo, o anche appunto nel periodo del Covid, molte attività si sono spostate online e spostandosi online, come dire, si dava per scontato che certi tipi di fee o di lavoro non ci fosse, e quindi anche lì in realtà è stato molto complesso poi come dire, riuscire a creare una solidarietà e quello che dovremmo fare, che stiamo provando a realizzare, è proprio anche un codice etico interno che possa portare tutti ad una condivisione, no? E ad una postura rispetto a quello che è il lavoro e le relazioni con la controparte, che sia il più possibile univoca e coesa, perché altrimenti siamo i primi di fatto a farci competizione. E quindi ecco, per noi è stato comunque importante il Covid, proprio perché senza il Covid sicuramente non saremmo nati, nel senso che il Covid ha ovviamente fatto sì che ci fosse una battuta d'arresto tale che non si poteva più stare zitti rispetto ad un lavoro sommerso, precario, e quindi riuscendoci a incontrare online in 300-400 persone alle prime riunioni, dopo i primi flussi di coscienza si è partiti operativi anche appunto su una, veramente delle linee che potessero essere il più concrete possibile. Come dicevo, diciamo, i nostri invece sostenitori e collaboratori sono sicuramente le università, nello stesso modo in cui Redacta opera, quindi da un lato come anche formazione dei giovani futuri artisti o lavoratori dell'arte, lavoratrici dell'arte, e per metterli a conoscenza di, come dire, qual è poi il mondo del lavoro, e sicuramente appunto anche attraverso i consulenti, le consulenti di cui ci avvaliamo, le università piuttosto che anche alcuni studi di avvocati o commercialisti che in qualche modo hanno una sensibilità e anche una competenza specifica del settore culturale creativo. Volevo restare un attimo su questa questione dell'inchiesta, perché esce da tutte e due, fondamentale, è stata fondamentale anche nella storia del movimento operaio in Italia negli anni passati, diciamo. E mi pare di capire che nel caso vostro, che appunto corrisponde a un tentativo di ricomposizione di un tessuto di fornitori d'opera molto disperso, ha una duplice funzione o triplice, cioè da un lato ti permette dei contatti, di attivare dei contatti, cioè è un modo per dire vabbè, intanto chi sono, intanto io sto raccogliendo informazioni e con un meccanismo, come tu dicevi, con i prossimi vicini per farsi conoscere, ecco, e poi per ricostruire un quadro, il quadro del mercato del lavoro, del settore, per questo, e forse anche un pochino quali sono i limiti, i confini, ecco, di questa cosa. Abbiamo fatto l'inchiesta di Redacta, di Acta, è stata presentata, mi sembra, qua con una lunga pomeriggio, quindi capisco che è un argomento che è troppo grosso ma in poche parole, come si fa l'inchiesta, cioè in che cosa e che tipo, in estrema sintesi, appunto per non andare troppo lunghi col tempo, che tipo di cose avete tirato fuori dal vostro da questo lavoro ad oggi, e se pensate di continuarla, no? C'è uno strumento che pensate di portare avanti, tenendo conto che forse se uno va avanti la deve affinare e aggiornare, ecco, e l'argomento è enorme, se si riesce a far stare in poco cose, sì. Provate, vediamo. Provo a essere brevissimo. Parto dalla fine, in realtà una cosa che non ho detto prima, cioè noi non abbiamo mai smesso di fare inchiesta, cioè fondamentalmente continuiamo, appunto, ho parlato dell'inchiesta sulla scolastica che tra l'altro, appunto, ricordo, cioè è tipo metà del fatturato di Editoria Italiana, però diciamo che il gruppo originario di Redacta nessuno lavorava nella scolastica, e quindi perché fondamentalmente persone della scolastica venivano alle riunioni e dicevano ma siete troppo poveri, io mi sento troppo fortunata, poi alla fine sono venuti, perché esatto, la proletarizzazione ci unisce tutti, e quindi quello quindi questa cosa qui, al di là della scolastica che era un buco nero che stiamo colmando, però in generale, cioè, sono lavori che cambiano anche nel tempo, cioè succedono, cioè, appunto, c'è un patto della tecnologia, ci sono delle dinamiche anche solo, cioè, ricordo che quando c'è stato il grosso aumento del costo della carta per prima della guerra, tra l'altro, per semplicemente l'aumento del costo del gas, cioè uno dei primi articoli che è uscito in Italia su una rivista è stato scritto dopo che questa persona è venuta alla nostra riunione, perché eravamo i primi a averne parlato, quindi sì, non ci ha dato il credito di questo. Però vabbè, comunque, nel senso, per noi è molto importante seguire, anche perché adesso un articolo che abbiamo fatto di recente è un articolo preso da confrontando Milano Finanza con le informazioni che ci arrivano a noi dalle redazioni, fondamentalmente, perché abbiamo visto che su Milano Finanza c'era il gruppo Mondadori che si bullava, che diceva: ah, facciamo grandi profitti, investite. Cioè, non era il gruppo Mondadori, era una marchetta di un giornalista di Milano Finanza che diceva un business antico da sapore, era bellissimo il titolo, però lo ritrovate. E noi d'altra parte cioè continuavamo a raccogliere informazioni da dentro Mondadori, cioè queste case, queste caporedattrici che erano schiacciate continuamente dai superiori, che dicevano: non c'è budget, taglia, e quindi poi questo si... E quindi noi semplicemente abbiamo messo insieme queste due informazioni e abbiamo detto: guardate che vi stanno prendendo in giro. E quindi questo è un modo di fare inchiesta, tra l'altro, che come viene, cioè, che non guarda solo a noi. Cioè, dice: ok, Redacta, lavoro autonomo, però alle nostre riunioni, e non solo, poi magari ne parliamo un attimo di quella cosa lì, dei compensi, di come stiamo lavorando, cioè noi abbiamo la collaborazione attiva di tanti dipendenti. Cioè, questa è una cosa comunque interessante, sia persone che hanno dei problemi seri, molto seri, sul posto di lavoro, che vanno al sindacato e non li cagano, fondamentalmente, quindi vengono da noi, che abbiamo comunque una struttura di avvocati e così, sia, ma in generale, persone solidali o comunque interessate a dire: beh, ma magari questo modo di lavorare che ci coinvolge tutti, perché alla fine se lavora male chi è fuori, lavora male anche chi è dentro, di solito, si può cambiare, e noi diamo una prospettiva comunque di cambiamento, e quindi li troviamo alle nostre riunioni. Io credo che sia per quello che vengono, magari anche perché vogliono un po' lamentarsi come facciamo tutti, o fare l'esperienza Alcolisti Anonimi di Redacta, che sempre, cioè, ormai siamo più tanto anonimi dopo. E, aspetta, cosa che mi hai chiesto? Ah, l'inchiesta, quindi sì. Beh, quella che abbiamo presentato qua, tra l'altro, era la ricerca che abbiamo fatto, che era audiovisivo e editoria. Diciamo che le cose principali uscite su editoria sono appunto esternalizzazione, che intervistando i cosiddetti CEO delle aziende ci hanno detto: ma noi la facciamo per ridurre i costi fissi, quindi, cioè, non ce l'hanno messa, sai, è una cosa manageriale, no, ma in realtà non abbassiamo i compensi, ci hanno detto esplicitamente, quindi quello mi sa che è il dato più importante, cioè che intervistando poi le persone con questo, diciamo, veste quasi universitaria, poi le risposte sono abbastanza chiare. E l'altra cosa che è emersa, forse, che farei proprio in massima sintesi, è che, diciamo, che tutta l'innovazione tecnologica che c'è stata, diciamo, negli anni, mi sa, 15-20 anni fa, che di fatto ha permesso di esternalizzare il lavoro in modo massiccio, e nelle parole anche di analisti del settore, esperti così, cioè non è stata usata per cambiare il modello economico del settore editoriale, che è un modello economico un po' strano, in cui si stampa tantissimo cercando di comprimere i costi, sperando che qualche libro venda e che recuperi i costi di tutta quella carta buttata, ma di fatto si è tenuto il modello economico vecchio, anche perché gli attori del settore sono gli stessi, cioè sono sempre messaggerie, Mondadori, cioè la distribuzione è quella, e si è di fatto, anzi, inasprito, è diventato ancora più estremo questa compressione del costo del lavoro, che è stata resa, permessa anche da questo, da questa cosa. Poi mi avevi chiesto un'altra cosa, Tommaso, non ricordo più, ho risposto tutto. No, così, va bene. Meglio così. No, io, insomma, noi in realtà l'abbiamo fatta nel 2019, e tra il 2019 e il no, non è vero, 2020, 2019 non c'era pandemia, e il 2020, e non l'abbiamo ancora rifatta, perché è un altro tema, in generale, rispondendo, trascinando la domanda di prima, almeno per noi sarebbe interessante capire, è quello della costanza e della durata delle persone, della disponibilità delle persone, perché ovviamente, essendo comunque attivismo, cioè per noi è molto difficile riuscire a garantire, soprattutto da quando è ripartita poi tutta la macchina, una continuità rispetto appunto anche a questi grandi obiettivi che ci diamo. Poi è un compleanno, non so se ha senso dire due cifre che sono terrificanti. No, allora, diciamo che l'indagine di settore voleva analizzare in maniera quantitativa e qualitativa alcuni elementi appunto di carattere sociale, giuridico, economico e contrattuale degli art workers. Il risultato è stato appunto piuttosto drammatico, vi cito solo appunto alcuni dati, ovvero l'86% delle art workers ha una laurea magistrale o un grado di formazione superiore in ambito artistico, e il 48,9% delle art workers afferma di avere un reddito annuo inferiore ai 10.000 euro. Quando ho detto questa cosa l'altro giorno in Brera, ho detto: ragazzi, chiudiamo, andate via, cioè cosa ci fate qua, no? Nel senso, cosa continuate? No, non è vero. Però questo è l'ambito in cui ci muoviamo. Cosa significa che ha un reddito annuo inferiore a 10.000 euro? Perché poi c'è anche, come dire, tanta ignoranza e non conoscenza da parte degli art workers di tutto quello che è il sistema anche fiscale, contrattuale, giuridico, che sicuramente c'è molto nero, che sicuramente c'è molto grigio, che non viene appunto esplicitato, perché di fatto appunto sappiamo che la soglia di povertà è pari a 10.300 euro annui a singolo individuo, quindi in ogni caso effettivamente a maggior ragione a Milano con 10.000 euro non riesce a vivere. No, direi che possiamo stare su questi dati. Prendo spunto da questo, una cosa che hai detto, cioè tu hai detto abbiamo fatto un articolo, hai detto così, sì. Allora dove l'avete fatto questo articolo? Sul blog. Sì. Quindi avete un blog e non avete collaborazioni con delle riviste altre, ossia con delle dei gruppi che si occupano di pubblicare delle informazioni, ecco, chiedo. No. Non organiche? No. No, non organiche, no, però... Sì, diciamo che capita, cioè abbiamo almeno un paio di riviste che, appunto, Napoli Monitor, quando c'è stata la questione del saggiatore, è stata la rivista che ha pubblicato l'articolo, credo, più completo sul nostro lavoro, su questa cosa qui. In realtà siamo finiti anche sul Tascabile, che in un certo mondo comunque è molto autorevole come rivista, e appunto sempre per la questione del saggiatore. E poi si Officina Primo Maggio, con cui condividiamo molte cose, e queste fondamentalmente, però rapporti fissi, diciamo che con, appunto, usando molto i social, il blog, così, cioè un po' quella parte lì salta, forse di importanza è minore, non so come dire. Poi è chiaro che devi arrivare a mondi diversi, però sì, non è proprio fondamentale, cioè puoi fare anche un po' improprio, e quando hai bisogno, cioè, muovi un po' quello che... Io volevo solo dire una cosa su mantenere le persone. Sì, non so se c'è bisogno di dire altro, però sì, cioè, è un problema, ovviamente è lavoro volontario il nostro, quindi è molto difficile, però sì, si lavora per accumulo fondamentalmente, cioè si mettono le basi, c'è, cioè, tutto il lavoro che si fa sui compensi, poi da quello si parte, l'inchiesta, e si cerca di costruire sul lavoro degli altri, però non è facile, soprattutto quando devi avere delle, come stiamo provando a fare, delle reti locali forti, cioè strutturate, che ogni mese fai una riunione a Bologna, ogni mese fai una riunione a Torino, a Milano, cioè è una cosa comunque impegnativa da fare, e richiede tante persone per non morire, quindi è complicato. Sui redditi volevo chiederti una cosa, se avete una cosa che è venuta fuori da noi, perché noi un dato che dicevamo sempre era più della metà di chi lavora a tempo pieno per questo settore qua guadagna meno di 15.000 euro lordi l'anno, quindi siamo lì, siamo un pochino più fortunati, virgolette. Però un dato che abbiamo tirato fuori dagli stessi dati, però successivamente, è quanto tempo ci vuole per ottenere un reddito dignitoso. Cioè, e sono venuti fuori dei dati osceni, cioè nel senso che, cioè, anche persone... No, di esperienza, cioè quanto dura la gavetta, cioè, capito? Cioè, negli anni quanto cresce il reddito? Perché voi, no, allora facciamo per capire. Beh. La definizione di art worker è adesso. Conosco l'audiovisivo, l'editoria, ma questo non l'ho capita. No. Aspetta. No. No, finiamo. Perché questo tu dici, in particolare i vostri, la vostra rete è di giovani. Beh, giovani, non sono giovani, però sì. Cioè, se il risultato, no, se tu dici che il risultato è quello dei, se il risultato è quello dei 15.000 lordi, sì, e tu ti chiedi quanto tempo ci vuole, sì, per avere una qualità della retribuzione dignitosa, vuol dire che i tuoi devono essere, quelli a cui hai fatto l'inchiesta devono essere piccoli, se no non ci arrivi mai. Sì, allora, c'è questo aspetto che è duplice, cioè nel senso che lavorano tante persone giovani, ma perché è un lavoro di fatto che puoi fare se non hai problemi da adulto, cioè tipo ammalarti, avere dei figli, con quei redditi qua, vabbè, immagino. Problemi. No, problemi, insomma, scusate, forse. Però, insomma, questioni, impicci, distrazione. Però la malattia come una distrazione, vabbè, per qualcuno può essere. E, vabbè, no, cerco sempre di tirare una parola unica, però cioè, tempo in cui non lavori, non so come la puoi definire, però vabbè. Però sì, è quello, cioè è un lavoro da giovani così, perché, ma questo anche con l'audiovisivo è venuto fuori, che ce l'hanno detto in tanti, che senza, di fatto, senza poter accedere alla malattia e alla maternità, cioè nel senso comunque uno fa delle scelte a una certa età, c'è poco da fare. Però volevo finire su quel dato, cioè i 15.000 euro per noi valgono per la metà anche dopo 10 anni che uno è nel settore, cioè questa è la cosa veramente sconvolgente, cioè al di là della media. E abbiamo visto che abbiamo preso come cifra dignitosa 25.000 lordi, che sono comunque pochi per un full time, e dopo 6 anni ci arriva il 20% di chi lavora in questo settore. Poi la percentuale, anche con più esperienza, così rimane uguale, cioè comunque è come se ci fosse una parte che cerca un quinto che ha un reddito decente, però è quella, cioè non... Quindi volevo sapere, insomma, era interessante anche vedere questa gavetta. Sì, noi purtroppo non abbiamo fatto questo tipo di cioè non siamo riusciti ad arrivare a questo tipo di dato, quindi non so risponderti. Mentre rispetto a chi sono gli art workers, noi diciamo che da subito abbiamo cercato di non escludere nessuno, quindi chiunque lavori nell'ambito dell'arte contemporanea graviti intorno alla figura dell'artista e alla costruzione di realizzazione di un'opera. Quindi può essere sia appunto il curatore, la curatrice, ma anche chi si occupa di grafica, prevalentemente nel settore dell'arte contemporanea, chi si occupa di allestimenti, prevalentemente nel settore dell'arte contemporanea, chiunque, chi si occupa di comunicazione in generale nell'arte contemporanea. Proprio perché di fatto non c'è, come dire, non ci sono altre realtà che hanno questo tipo di interesse, e quindi ci sembrava necessario che fosse Art Workers Italia, proprio fosse un collettore di tutte le professionalità. Poi nel dettaglio ovviamente hanno risposto in maggior parte rispetto all'indagine di settore curatori e artisti, ma anche chi lavora nell'ambito delle accademie, quindi chi è un docente. Poi sì, non so quanto dilungarmi, però appunto anche perché poi i dati ormai, non dico che siano vecchi, però effettivamente ormai hanno un po' una certa data, e anzi sarebbe interessante appunto ormai anche post pandemia capire se come il settore è cambiato, è evoluto. Sì. Noi abbiamo un sondaggio che uscirà a breve, cioè sempre per quel problema che dicevi delle persone, così siamo stati tantissimo a elaborare questo sondaggio, però perché il nostro sondaggio su questi dati qua è 2019-2020, e quindi abbiamo imparato tante cose, e soprattutto magari abbiamo una rete un pochino più forte, esce un altro per raccogliere più dati, diciamo, quantitativi, si possono chiamare così, perché non c'è un campione, quindi in realtà non sono esattamente quantitativi, però dei dati su tante persone, fondamentalmente, e dovrebbe uscire entro fine mese, però chissà, cioè, più o meno vorremmo far uscire entro fine mese, però secondo me anche il post-pandemia è interessante capire cosa è successo, perché, insomma, sono cambiate le cose, secondo me. Sì, cambiano, sì, non solo in relazione alla pandemia, cambiano velocemente. Volevo una domanda tecnica piccolina, dicevate che voi avete degli, anche tra questi vostri, come dire, che vi con cui vi relazionate degli studi legali, voi fate delle vertenze anche, seguite delle vertenze, avete, vi è capitato di occuparvi di... Allora, no, rido perché, allora, per adesso diciamo che l'unico caso diciamo di azione collettiva che si può chiamare vagamente vertenza è quella col saggiatore, che è stato un episodio, vabbè, sintetizzo al massimo, poi sono persone più competenti qua, però di fatto il saggiatore aveva una redazione composta da esterni e che erano già, venivano quasi tutte le riunioni di redact, quindi si stavano organizzando per chiedere più soldi e per una coincidenza, crediamo, il saggiatore a un certo punto ha tagliato i ponti con tutti contemporaneamente e quindi fondamentalmente di solito dei lavoratori autonomi avrebbero detto vabbè, sai com'è, il saggiatore non mi pagava tanto bene, vado a cercare altro. Invece, essendo tutte le riunioni di redacto, quasi tutti hanno detto vabbè, intanto che ci siamo almeno chiediamo chi lavora al posto nostro, perché non avevano assunto nessuno, quindi vabbè, forse immaginerete come ho fatto a comprimere ancora il costo del lavoro, però di fatto abbiamo detto ok, facciamo almeno una lettera pubblica in cui certo. E questa è servita diciamo molto, diciamo, la reputazione del saggiatore come casa editrice di sinistra così un po' si è sgretolata. È una roba di cui si è parlato tanto, se ne parla ancora, poi di fatto cioè quelle persone lì la maggior parte non avrà più con il saggiatore e hanno trovato lavori migliori per fortuna, però diciamo che è stato un primo vagito, non so come chiamare, di azione collettiva, anche per dare una prospettiva e dire guardate che cioè sta cosa qua può succedere e quindi pensiamo che comunque come meccanismo anche di reazioni previste cioè un altro editore così astuto da eliminare tutti contemporaneamente magari non succederà questa cosa qui. Divertenze in questo ambito è molto difficile, però non posso dire altro, però diciamo che domani dovremmo andare in una città del centro Italia perché c'è una vertenza che potrebbe partire non nell'ambito editoriale ma in un altro e purtroppo non posso dire altro, però diciamo che ci sono alcune situazioni soprattutto quando ci sono tante finte partite IVA, in cui di fatto il lavoro autonomo assomiglia moltissimo al lavoro dipendente, anche solo come rapporti di forza, perché se tu hai degli orari di lavoro e hai una postazione di lavoro, anche se non sei dipendente, se fai sciopero il danno economico lo fai lo stesso, poi le dinamiche legali dello sciopero sono diverse. E quindi abbiamo una situazione interessante, però appunto al momento è segreta, quindi ci potete anche non credere. No, crediamo, aspettiamo domani. In un collettivo di cui ho fatto parte negli anni 90, il collettivo contro la precarizzazione dei veri transiti, avevamo fatto un libretto, si chiamava Mi fletto ma non mi piego, in cui c'erano tutte le istruzioni su come fare, gestire delle vertenzialità anche diciamo sul piano legale per quei lavoratori precari che in buona parte erano del tutto privi di, come dire, strumenti e indicazioni. Allora un pochino di strumenti giuridici c'erano, adesso forse meno, può darsi, non so. Vabbè, questo. Volevo farvi un'altra domanda e poi forse se qualcuno vuole dire, insomma, perché sembra noioso, ma ve la vorrei fare perché abbiamo qua un gruppo che si occupa di questioni sulla tecnologia, legate di critica della scienza e della tecnologia. Una delle gli argomenti che ci interessa è capire in un contesto come questo attuale, in cui c'è una fortissima tendenza alla virtualizzazione, alla digitalizzazione e all'introduzione delle tecniche digitali in ogni ambito della nostra vita, quale impatto questa cosa ha nel luogo di lavoro, nei diversi luoghi di lavoro. Quindi vi chiederei se, perché può essere che no, cioè non è per forza necessario rispondere, questa, perché tu hai detto per esempio che la digitalizzazione un inizio è quello che ha permesso 15 anni fa di delocalizzare i lavori l'attività editoriale, quindi è una storia vecchia, no? Da questo punto di vista l'effetto già c'è stato e già partito da tempo fa. Ecco, se possiamo dire che c'è qualcosa in atto ora legato a questa cosa, oppure invece no. Non lo so, cioè, quando abbiamo fatto l'inchiesta audiovisivo, quando ci hanno raccontato appunto dell'effetto del cambio della tecnologia sul lavoro audiovisivo, ci hanno parlato di, cioè, avevano detto è caduto un asteroide fondamentalmente, perché si sono abbassati tantissimo i prezzi degli oggetti con cui uno lavora e anche le competenze, è diventato molto più facile fare il lavoro. Ecco, editoria secondo me è successo qualcosa di simile, cioè quello che doveva succedere più o meno è successo. Poi si parla tanto a livello di dibattito, arriva in tutti i dibattiti la domanda sull'intelligenza artificiale, quindi se avete rispondiamo. Però secondo me, e qua però siamo a livello quasi di opinione personale, cioè il lavoro sul libro, cioè è un lavoro talmente ad hoc, talmente ogni libro è un po' una cosa a sé, che anche le mansioni più tecniche comunque hanno sempre un contenuto di improvvisazione, adattamento, così, che non si attaglia molto alla, comunque, a come funziona un'intelligenza artificiale, per quel che ne so io, che non sono certo un esperto. Però diciamo che non vedo grossi rischi né sulla scrittura dei libri né sull'impaginazione. Chiaramente invece magari sull'ambito della comunicazione, dove sì, cioè, come sappiamo, insomma, per produrre contenuti per i blog, così, queste macchine funzionano molto meglio, forse lì potrebbe esserci qualcosa. Però non lo so, mi sembra che quello che doveva succedere è successo e siamo qui anche per quello, perché altrimenti sarebbe, diciamo, l'organizzazione dei lavoratori e lavoratrici sarebbe fatta in modo diverso. Sì, allora, per noi rispetto proprio al digitale e appunto a tutto quello che si porta dietro in termini di intelligenza artificiale, è diventato un campo di indagine e di lavoro per molti artiste e artisti, ovviamente. Quindi stanno, cioè, diciamo, proprio a livello di ricerca, ma questo esula un po' da quello che è l'attività di AWI, c'è tantissimo, tantissima sperimentazione anche appunto su proprio su e con l'intelligenza artificiale in termini di creazione di nuove opere o di co-creazione di opere. C'è un altro tema che è quello degli NFT, ma forse poi si diventa un po' troppo anche, insomma, specifici, però ecco, come AWI abbiamo inserito all'interno di alcuni contratti di relazione con i collezionisti o con le istituzioni, ovviamente all'interno dei diritti di utilizzazione economica, chiaramente la possibilità o meno da parte di chi acquisisce l'opera di poi realizzare autonomamente degli NFT a partire da quell'opera. Quindi ci siamo iniziati, esatto, abbiamo iniziato, esatto, a ragionare, a portarlo come termine di discussione, ecco, tra le parti. Sì, io non pensavo in realtà tanto all'intelligenza artificiale, che è sicuramente un argomento di grande attualità, ma per esempio pensavo a quello che raccontavate quella volta su quel gruppo di sottotitolatori di film, di serie televisive, che è un'attività, voi dicevate, non sappiamo neanche dove, più o meno sono sparsi nel mondo, lavorano chi di giorno, chi di notte, fanno a casa, cioè questa cosa qua, a parte la grossa diffusione della serie televisiva che è legata alla trasformazione del mondo della ricezione dei media, e che questo è, negli ultimi anni ha avuto una grande... E poi probabilmente anche quel tipo di lavorazione è una cosa che non avresti voluto fare 10 anni fa, così, no? Sì. E cioè, che vabbè, riassumo solo velocemente quello che ha detto Tommaso, cioè c'è un gruppo all'interno di ACTA che si chiama Tramiti, che fondamentalmente sono persone che fanno sottotitolazione, cioè traducono i sottotitoli delle serie TV, per essere super semplice, anche dei film. E loro sono nati a partire da una contrattazione collettiva, perché fondamentalmente lavoravano tutti per un subfornitore di queste piattaforme, Netflix, eccetera, che è il subfornitore che di fatto è il più grande attore sul mercato, e quindi dava da lavorare a tutte queste persone sparse, però, come dici, in tutto il mondo. Cioè, uno dei personaggi più importanti di Tramiti vive a Kyoto, è un personaggio improbabile, è un personaggio mitico, però è uno che dici, ma a Kyoto, e ha trovato un'altra persona a Firenze, persone in Sicilia, persone ovunque. Però l'intelligenza artificiale ha a che fare con questa storia qua, perché loro, la cosa che li ha spinti a coalizzarsi è il fatto che questo subfornitore di Netflix ha detto: guarda, il tuo lavoro di traduttore non ci serve in realtà, a noi ci servi come persona che fa post editing, cioè tu correggi l'intelligenza artificiale. E adesso, vabbè, senza andare ancora sul tecnico, però loro gli hanno detto: ma questa è una grandissima fregatura, perché se devi tradurre un manuale di istruzioni di un phone, la traduzione automatica funziona abbastanza bene, ma quando devi raccontare delle storie come nelle serie TV, cioè quello che produce intelligenza artificiale spesso è completamente sbagliato, cioè che tu fai prima a tradurtelo te. E quindi di fatto loro, con la scusa dell'intelligenza artificiale, gli hanno compresso i compensi. E quindi loro hanno detto: beh, vabbè, visto che lavoriamo su piattaforma, si sono ritrovati attraverso LinkedIn, attraverso così, e si sono messi insieme. E in quel modo lì cosa hanno ottenuto? Beh, hanno fatto anche loro la lettera, perché ormai cioè, a questo grande subfornitore che li ha ignorati, però hanno trovato un accordo tra di loro, e qui torniamo al discorso della parte, cioè che il primo discorso che fai è coi tuoi, per dire: ragazzi, si lavora così, o comunque decidiamo insieme come si lavora, quantomeno non si lavora così, un po' un'altra, diciamo, sfumatura. E hanno ottenuto che tutti, quando gli fanno una proposta, rifiutano e provano a contrattare, cioè, che non è una cosa da poco, cioè, quindi questo ha contribuito un po' a ridurre questa compressione dei compensi fatta con questa scusa del post editing. Quindi l'intelligenza c'è, in realtà. Vabbè, io lascerei a voi la parola. Vogliamo fare la festa, esatto, no? Diciamo già, è una festa, ora di essere su qua. C'è qualcuno? Gente che si... Beh, possiamo anche chiudere, cosa dite? Volete aggiungere, grazie, qualche... Ma forse una sola cosa. Allora, aggiungo una cosa perché riguarda il Cox, solo per quello, quindi... scusa, siamo dei veri ruffiani. No, perché fondamentalmente l'ultima cosa che stiamo facendo, importante, secondo me, e che trova tra l'altro molte, appunto, una delle cose che secondo me assomiglia più a Awi, cioè noi inizialmente abbiamo dato dei compensi di riferimento sul per il lavoro, per dire: ok, smettiamo di autosfruttarci, abbassare sempre i compensi, diamo dei compensi di riferimento per le prestazioni, che abbiamo detto: prima bozza la paghi così. Se quei dati lì, quei numeri lì, abbiamo ottenuti attraverso l'inchiesta, confrontando con la contrattazione, con di fatto i contratti collettivi. E quindi abbiamo detto: se un lavoratore dipendente con quella neolaureato piglia così, per la prima bozza più o meno devi pigliare così. Solo che poi ci siamo resi conto che i compensi buttati lì così servono, ma se non è chiaro cosa significa prima bozza, poi vabbè, senza andare nello specifico, però ti danno il lavoro, ti dicono: questa è la prima bozza, però in realtà magari qualcuno prima di te non ha lavorato bene perché non l'hanno pagato, e cioè lavora un po' di più, ti chiedono un extra, così se non è chiaro il contenuto del lavoro vuol dire poco. E quindi come abbiamo fatto a di fatto aggiornare questi compensi? Abbiamo messo insieme un gruppo che vede persone di redatta freelance, ma ci sono anche persone che hanno uno studio editoriale, che sono di fatto subfornitori delle case editrici, e anche lavoratrici dipendenti, ma cioè caporedattrici importanti, che sono nostre solidali così, e hanno detto: beh, a me che voi lavoriate bene, che siate pagati bene, è una cosa che mi aiuta a me per il mio lavoro, per la mia vita. E quindi si è creato questo gruppo che ha elaborato queste cose che pubblicheremo presto, e però la prima riunione l'abbiamo fatta all'archivio Primo Moroni, quindi mi sembrava da dire, insomma. Va bene, dai, facciamo sta festa. Allora, tanti auguri ancora, buon compleanno.